Vacanza di lago. Capitolo tredicesimo. Alex raggiunse la panchina in metà del tempo che aveva impiegato per raggiungere il locale. La panchina era vuota al suo arrivo. Una busta rovesciata e ancora le tracce di Martin. Non ebbe più pensieri. Si strinse le chiavi nel palmo come a graffiarselo e cominciò a correre all'impazzata in ogni direzione del parco, urlando soltanto il suo nome, disperato, come se la conoscesse da una vita. Martin. Mentre la folla a quell'ora era così scomposta e sfibrata dalla prima stanchezza notturna e dopo i giochi si riversava sulle panchine a masticare o a soffiare discorsi, parole. Sotto le luci basse delle luminarie, per addormentare forse i bambini o raggiungere il parcheggio con maggiore tranquillità. Alex adesso non sapeva se ritornare da Pierre o cavarsela comunque da solo. Mentre si girava intorno, gli apparve Bruno, all'improvviso, come dal nulla. Non era giusto che tu andassi da solo, e così ho pensato. Alex lo guardò come stordito, poi si avvicinò con gli occhi sbarrati. Martin non c'è più. Come non c'è più? Ho ottenuto solo le chiavi per accompagnarla, altrimenti se lo avessi aspettato. A questo punto non ci resta che dividerci. Non penso che sia andata fuori dal parco e poi a quest'ora comincia a sfollare. Dovrebbe essere abbastanza più facile. E poi Pierre che si va ad ubriacare in un momento come questo, io proprio non lo capisco. Allora, pensiamo un po'. Rivediamoci in questo punto tra un quarto d'ora. Io andrò in direzione della ruota e seguirò tutta la curva dei giochi successivi. Il laghetto artificiale, il piccolo ponte e poi rifarò tutto il giro da lì. Tu invece andrai per la zona opposta. In quel modo non lasceremo scoperta nessuna zona del parco. Allora ci si vede alla stessa panchina, quella a fianco al lampione, va bene? E poi se ci fai caso c'è anche una scritta in rosso, vedi? Saint Loops. In ogni modo teniamo i telefoni accesi, qualsiasi cosa accada, chiamami. I ragazzi così si avviarono, ciascuno nelle sue direzioni prestabilite. Martina, intanto, era sospesa da sola sulla ruota panoramica, con gli occhi chiusi e un braccio alzato, come per afferrare qualcosa di lontano, ma inafferrabile. Aveva la testa pesante, ma quell'aria così diversa che stava prendendo a quell'altezza sembrava farle quasi bene. I capelli le erano andati sugli occhi per il troppo vento. Quel giro non durava molto, ma in quel momento sembrava che il tempo non fosse più una dimensione che la riguardasse. Aveva una mano che le stringeva un polpaccio e soffiava i capelli per allontanarseli e per guardare meglio la luna, tutta per intero, che le era sempre distante come prima, forse ancora di più. La prima tappa di Alex fu proprio la biglietteria della ruota panoramica. Ma nonostante alzasse la testa di continuo e si tendesse tutto sulle punte per guardare, non riusciva ancora a scorgerla in alcun modo. Si trattenne ancora per poco, poi proseguì oltre. Martina, appena scesa dal vortice cullante del gioco, aveva ancora la testa che le girava. Andò a risedersi allo stesso posto di prima, sulla stessa panchina. Intanto Bruno e Alex continuavano a girare a vuoto per tutto il parco, per ritrovarsela poi addormentata nel luogo esatto del loro appuntamento. Si guardarono, adesso senza più parlarsi, ma rasserenati. Alex cacciò le chiavi e con una mano le scostò piano i capelli dal viso, accennando ad una lieve carezza sullo zigomo. Bruno lo guardò con attenzione, poi allontanò gli occhi da quella scena. Stavo dormendo senza sogni, disse Martin. Perché mi svegliate proprio adesso? Adesso si ritorna a casa, Martin. Si ritorna dalla nonna, va bene? Disse Alex. Davvero? rialzandosi stordita e guardando entrambi con un'aria calma, trasognata. Però dovete dire alla nonna che non è colpa mia, che non le ho messo niente nel cibo. È chiaro, non voglio essere accusata ancora una volta per qualcosa che non ho commesso. Questo non dovrà avvenire più, per nessuna ragione al mondo, altrimenti a casa non ci torno più, è chiaro. Bruno e Alex si guardarono negli occhi, come inghiottiti da un turbine sconfinato di malinconia e di spavento. Martina era ancora seduta, nella stessa posizione, ma stavolta aveva entrambi i palmi ai lati delle cosce, come per ricaricarsi di energia nelle sequenze di gesti strani e ripetuti, in sequenze oscure. Prendeva a piegare e a distendere gli avambracci in un dondolio ossessivo che la portava a sorridere e a divertirsi sempre di più, nel velocizzarlo all'impazzata e senza alcuno sforzo, davanti agli sguardi dei due ragazzi imbarazzati e ormai già stanchissimi. La ragazza si alzò, tremante, pallida. Si avvicinò ad Alex e gli sorrise, prendendogli il braccio ed appoggiandosi piano alla sua spalla. Martin cominciava a contare e ad enumerare lettere e numeri in sequenza, mentre il parco cominciava lentamente a svuotarsi. Bruno non capiva la sequenza di Martin, Alex invece la continuò all'inizio, quasi per gioco o per farla contenta. Sì, hai ragione. Ti piacciono i numeri, Martin? Finalmente la macchina. Aprirono, entrarono. Martin si sedette dietro. Bruno era davanti ed Alex guidava. Voglio stare stesa. Adesso mi gira tutto. I ragazzi si guardarono perplessi. Acconsentirono tacitamente. A Borgo San Federico ho visto una strega. Una strega magra e tutta nera, ma di un nero bellissimo, lucido, come la nuca delle foche bagnate, ma che non conosce i numeri. Gli devo insegnare io, così lei mi insegna in cambio ad aiutare la povera nonna. Vorrei andarla a prendere. Voi dite che riuscirà ad imparare le sequenze esatte entro domani. Quelle dei numeri è molto importante. Pierre è il mio unico grande amore, ti ha vergogna di me. Che dolcezza, vero? Ho una sua foto nelle mutandine, ragazzi. Pierre è molto stanco e preoccupato, lo diceva Bruno. Deve preparare la finale del suo concorso pianistico. Ed è per questo che non può subire altri stress. Capisci, Martin? Devi cercare di comprenderlo anche tu. Il primo giorno in cui sono arrivata al lago, mi ha accolto in modo strano, dicendomi che sono del tutto inutile. In fondo, aveva ragione, Pier. Sono proprio inutile, inutile. Ma adesso la I è la nonna dell'alfabeto, non è vero, Alex? Come devo procedere allora? Aiutatemi, ragazzi. Sì, è la nona. No, adesso mi sto confondendo, perché non mi aiutate? Prima sembravate così disponibili, adesso ho paura. Le parole di Martin sfumavano d'intensità quando aprirono i finestrini anteriori. La macchina procedeva, tranquilla, nel buio delle curve. Quell'auto che si lasciava alle spalle le giostre e le ultime grida animate della serata, ormai meno acute e meno vitali, del loro Luna Park lontano. Mi sembra che adesso si sia addormentata. Speravo bene. Alex non gli rispose e continuò a guidare con lentezza e con grande controllo. Tra poco sarebbero cominciate le prime curve, quelle più impegnative. E l'auto non era nemmeno la sua. Doveva abituarsi bene ai tempi di frenata, alla risposta dello sterzo, al cambio, che era piuttosto rigido. Cominciò a piovere. In meno di un'ora la ricondussero a casa, la salutarono e lasciarono che entrasse nel silenzio notturno. I rumori della casa avevano per Martin un loro particolare tepore e non invadevano mai il suo riposo, in nessuna fase del mattino. Ma in quel mattino Il buio della stanza, in contrasto con le luci piene e vibranti della casa che trapelavano dai vetri, stava durando troppo a lungo. I due vecchi menhir si guardavano senza dirsi niente, ma posando più volte lo sguardo sul quadrante dell'orologio della cucina, che avanzava minuto dopo minuto, a tempo, e in crescendo con quella sua assenza, così strana, dalla cucina. E cominciava a pesare e ad avvertirsi sempre di più. Sul tavolo la sua tazza capovolta, accanto il contenitore giallo con lo zucchero bruno e le ciambelle al vino. Sono quasi le 11. Come mai Martini è ancora a letto? Disse la nonna Teresa, alquanto insospettita. L'hanno fatto tardi. Tu, Alfio, l'hai sentito tornare? Ma ho avvertito qualcosa. Ero tra veglia e sonno. Sarà stata mezzanotte, o forse anche più tardi di mezzanotte. Non ho visto nemmeno l'orologio. Pranzi a casa, Alfio. Vado a comprare le cartucce del fucile per domattina. E poi vorrei anche passare per il mercato. Penso comunque di farcela per il pranzo. Stai tranquilla, Teresa. Se scendi subito, forse ce la farai. Ma se continui a ciondolarti ancora così, in giro per casa. Adesso vado, hai ragione. Ricorda di salutarmi, Martin. La stanza buia in fondo alla casa sembrava dilatarsi come un'ombra umana, stabile, inquietante, che adesso richiamava l'attenzione della nonna in più momenti della sua giornata, passata in solitudine, convulsa in piccoli diversi rituali e preparativi, che stava vivendo tutti con un tormento latente, sottile, che ne inquinava la limpidezza metodica nell'espletarli. Presa da un eccesso di ansia, si decise ad avvicinarsi alla stanza della ragazza. Posò la mano sulla maniglia fredda, prese ad aprirla, piano, con grande lentezza e stando attenta a non farsi sentire. Il fascio di luce proveniente dalla cucina si dilatava, insieme al vapore dei cibi in preparazione. Mano a mano che la porta si schiudeva al segreto di quella stanchezza strana e così insolita, che adesso avvolgeva la piccola Martine lasciandola ancora addormentata, nel pieno del mattino. Il letto era sommerso da un ammasso eccessivo e scomposto di coperte e piumoni che prima di quella notte non erano mai stati sul letto. Avrà avuto freddo, poverina, disse tra sé la nonna, vedendo la ragazzina sommersa da più di tre coperte, come se fosse congelata. La porta dell'armadio a muro era ancora aperta e le buste di plastica che contenevano i piumoni matrimoniali per gli ospiti d'inverno erano tutte rovesciate a terra, l'una sull'altra, diradando nella stanza l'odore pungente della naftalina. Nonna Teresa si avvicinò ancora e scorse in quello squarcio di penombra un volto diverso. Era cosparso da una smorfia dolorosa che le tendeva gli zigomi alla parte più alta del naso. Gli occhi non sembravano chiusi, ma terribilmente serrati, come con della colla, e come se il loro buio fosse forzato dall'eccesso di un muscolo che faticasse ancora per rimanere ancorato in quella posizione e volesse tendersi disperatamente per riaprirsi alla luce, senza riuscirvi. Le mani invece tendevano lenzuolo rosa, avvinghiate, come di una grossa corda. In quel misterioso stato di riposo, Donna Teresa riusciva a scorgere solo una grossa contrazione diffusa per ogni respiro, per ogni angolo di tessuto del suo corpo disteso, muto. Cercò di scuoterla con una dolcezza misurata, graduale, avendo paura di poterla spaventare senza volerlo. A quel contatto Martin si rigirò pesantemente dal lato opposto, quasi a volerle sfuggire. Martè, è davvero molto tardi. Perché non cerchi di alzarti? Ti ho preparato già la colazione, sul tavolo che ti attende. La ragazza mormorò tra i denti qualcosa di impastato e di incomprensibile. Poi sembrò stirarsi, ricadendo di nuovo in quella stessa posizione in cui la nonna l'aveva trovata, non appena entrata. Allora, lo vuoi del tè, tesoro mio? La luna c'era, nonna, ne ero sicura. Invece il ritorno era sparita. La luna, che meraviglia! La luna è nel cielo, ma io intanto non ci sono più. Nella testa ho solo graffi e adesso ho ancora un male di sonno. Lusna. Si chiama Lusna, la mia lucina lunare. Incantata, ma adesso è svanita senza neanche avvertirmi. Lusna, dove sei? Ma che cosa dici, tesoro? Ma stai dormendo da ore e ancora sonno. E cosa c'entra la luna adesso? Stavi forse sognando, Martin? La nonna le prese una mano, la sentì gelida. Hai freddo, Martin? La ragazza stavolta si coprì il capo con il piumone più pesante, alzando un muro definitivo tra lei e Teresa. Preoccupata, la signora Venier si ritirò in cucina, con un volto accigliato, approntando la teiera con l'acqua. Da quel giorno i cambiamenti della ragazza cominciarono a seguire una loro logica perversa, contraddistinta da una coerenza macchinosa e raffinata, che li faceva dilatare come piccole macchie di olio su di un tappeto persiano. Ciascuna con una sua geometria lineare e spietata, ad offuscarne i pregi e gli intarsi della seta fino ad ingoiarseli nelle spine grasse del loro unto.